finisce mai di imparare sostanzialmente. Allora, invece, oggi diamo un'occhiata a quello che è il primo vero capitolo della green chemistry, chiamiamola così, o chimica, ecco, sostenibile. Che è la prima metodologia che possiamo utilizzare per fare delle reazioni che, insomma, inquinino meno, si spenda meno, costino meno, e ci diano dei vantaggi di varia natura. La metodologia che stiamo per vedere è una metodologia che mette insieme una reazione che sostanzialmente si fa in molti passaggi, diversi step. Ebbene, questi diversi step vengono messi tutti in un unico bulk di reazione, vengono fatti tutti insieme. Il prodotto A reagisce col prodotto B per dare C. Il prodotto C si dovrebbe purificare, poi il prodotto C purificato viene fatto reagire con D per dare E, il prodotto E si dovrebbe purificare e così avanti. Invece si mettono tutti i reagenti insieme e si ha la fortuna, se si lavora bene, di ottenere subito il risultato voluto, cioè il prodotto finale. Qual è il risparmio che noi abbiamo? Il risparmio che noi abbiamo è il tempo che costa, ma non è solo quello. Ma lo devo dire che è il tempo che costa, perché quando il chimico industriale va sull'impianto e progetta una reazione, deve pensare al tempo che l'operaio utilizzerà. E siccome il tempo dell'operaio costa per il 65% di tutta la, grosso modo, di tutta la manodopera del prodotto finale, è chiaramente meno si lavora e più il prodotto costa meno. Ma da un punto di vista puramente chimico, invece, è che noi non dobbiamo lavare più reattori. Ne laviamo uno solo, ne prepariamo uno solo, usiamo una sola volta il calore, la corrente elettrica, il quello che ci vuole, anche se dobbiamo raffreddare, perché per raffreddare si spreca energia comunque. Usiamo una sola volta il solvente, se dobbiamo usare i solventi, e noi sappiamo che i solventi impiegano, insomma, costano, gravano per l'85% dell'inquinamento totale sul nostro pianeta, i solventi dell'industria. Che caratteristiche deve avere una reazione per poter essere fatta in questo modo? Una reazione che si viene de a definire multicomponente. La definizione è MCR, Multi Component Reaction, dove davanti a MCR come nomenclatura c'è la sigla, una lettera dell'alfabeto che indica chi ha fatto quella reazione. Per esempio, noi faremo per primo esempio, come primo esempio, la reazione di Ugi o Ughi, che dir si voglia, e quindi che mette insieme quattro cose. Quindi avremo una U4CR, cioè una reazione di Ughi che è multicomponente, ma questi multicomponente sono quattro, che vengono mescolati tutti insieme. Questo per dare una indicazione sulla nomenclatura che si usa. Come possiamo prevedere che questa reazione vada bene? Noi mettiamo insieme quattro cose. Perché queste quattro cose si reagiscano, interagiscono tra di loro come vogliamo noi, ci sono due ipotesi. La prima ipotesi è che le reazioni messe in gioco abbiano una velocità così diversa tra di loro che praticamente i reagenti si scelgono. Prima avverrà il primo step, poi con calma il secondo, poi il terzo, perché se non fosse così, se tutte le reazioni avessero delle velocità paragonabili, otterremmo inevitabilmente alla fine una mescolanza di strani prodotti che noi chiaramente non vogliamo avere. Quindi grande differenziazione tra le velocità di reazione. In questo contesto, noi per poter prevedere, e lo faremo con qualche esempio, di poter fare una reazione multicomponente, dobbiamo essere in grado di comprendere chi sono gli acidi, chi sono le basi e quanta hardness o softness abbiano. Perché noi sappiamo che solo gli acidi soft reagiscono con le basi soft e gli acidi hard reagiscono con le basi hard. Quindi quando mettiamo insieme una serie di prodotti, dobbiamo Dobbiamo sapere chi sono i più hard e dobbiamo sapere chi sono i più soft, perché quelli reagiranno prima degli altri. In questo contesto dobbiamo sapere che cosa vuol dire hard e soft. Punto numero due. Non c'è una grande differenza di reazioni, ma ndoko yokoyo, tutti reagiscono insieme alla bene meglio. Bene, ma se in questo contesto le reazioni sono reversibili, cioè siamo sotto controllo termodinamico, alla fine le reazioni andranno un po' avanti e un po' indietro, cioè torneranno a reagenti, un po' avanti a prodotti, un po' indietro a reagenti, ma alla fine si otterrà il prodotto termodinamicamente più stabile, che, se siamo fortunati, sarà uno solo. Questi sono i due criteri fondamentali. In questo secondo criterio, mentre nel primo c'era la cinetica di reazione, quindi noi dovevamo sapere subito chi avrebbe reagito prima, sulla base della natura degli orbitali molecolari messi in gioco, nel secondo caso noi dobbiamo sapere chi è il prodotto termodinamicamente più stabile finale. Lo dobbiamo individuare e quindi essere sicuri che quello sarà il nostro prodotto. Allora cominciamo a fare degli esempi. Più esempi facciamo, più ci rendiamo conto che ci possiamo svincolare dagli esempi, che comunque ci servono per capire come funziona sta roba, ma possiamo poi alla fine creare noi degli esempi, oppure renderci conto che all'organica 1 e all'organica 2 avevamo già studiato delle reazioni di questo tipo, ma non ce ne eravamo resi conto. E soprattutto da un punto di vista industriale bisogna capire che queste reazioni sono ricchissime. La reazione di Ugi. Guardate come funziona questa reazione, che serve per fare un sacco di prodotti importanti. Noi dobbiamo mettere insieme quattro cose. Una cosa è un composto carbonilico. Prendiamo l'aldeide formica. Ma poi capite che questo sarà lo schema generale, poi potremo scegliere qualsiasi altra aldeide o anche, che ne so, un chetone. Poi ci aggiungiamo una ammina secondaria. Poi ci aggiungiamo un isonitrile che avrà una struttura del genere. Guarda un po' l'isonitrile come è fatto. Sostanzialmente l'isonitrile è un nitrile in cui l'atomo di azoto sta al posto dell'atomo di carbonio. Però quell'atomo di carbonio lì è legato con un doppio legame all'azoto, quindi mima un doppio legame CO, se volete, o un doppio legame CC, però polarizzato, ma ha questo doppietto di elettroni che sono in uno stato di singoletto, un doppietto, che è una base. Bene. E poi ci manca un'altra cosa fondamentale, che se non ci fosse non succederebbe niente, l'acqua. Questa è evidente che è una reazione multicomponente a quattro cose, perché noi ce le mettiamo dentro tutte e quattro. Quattro cose. Guardiamo che cosa succede. Innanzitutto siamo in condizioni di equilibrio e dobbiamo fare agire le cose hard con le cose soft. Sì, va bene, però ce ne può fregare anche poco, perché alla fine, essendo che la reazione è di equilibrio, noi avremo comunque il prodotto finale. Allora, quello che voi comprendete subito è che questi due aggeggi, cioè il composto carbonico e l'ammina, reagiscono insieme. Dall'organica 1 noi che cosa otterremo? Otterremo questo composto qui, che ovviamente ha fatto così, quindi devo scrivere questo tipo di prodotto. Vedete che questo è un equilibrio, questo è un unione di Zwitter, cioè la carica sull'azoto è positiva e sull'ossigeno è negativa, quindi ci sarà una salificazione interna e scriveremo questo composto qui, e questo composto qui noi lo possiamo scrivere anche in questo modo, cioè sotto forma carbonio, azoto, sotto forma di coppia ionica, questo signore che vale più attaccato al controione o a cateno, che ovviamente è la parte basica della molecola. Questo signore qui è in realtà un composto carbonilico attivato, perché lui ha una formula limite di risonanza, per cui questa carica positiva che abbiamo messo sull'azoto, perché l'azoto ha un ottetto di elettroni, così, e anche il carbonio ha un ottetto di elettroni, bene, noi questa cosa la possiamo scrivere con una risonanza mostrando che la carica positiva va sul carbonio. Bene, a questo punto il doppietto di elettroni attacca dell'isonitrile, il doppietto di elettroni sul carbonio dell'isonitrile attacca l'atomo di carbonio di questa forma immonio per dare la seguente cosa: RNRCH2, che è questo, C più doppio legame N, così. Ovviamente, a questo punto, l'acqua che noi ci abbiamo messo dentro attaccherà qui e il prodotto sarà RNRCH2COH, doppio legame N, così. Vedete che questa è la forma nascosta dell'imide. Attraverso un equilibrio che invece di chiamarlo chetoenolico lo chiameremo imide idrossimminico, si potrebbe chiamare così, no? Il prodotto vero finale è questo, RCH2CONH, composto aromatico. Ora, prima di andare a vedere la struttura di questo composto aromatico, vorrei farvi notare che le cose non ce le facciamo tornare. Qualcuno potrebbe dire, e questa è una cosa che sui libri non è mai scritta bene, che queste reazioni, sì, sono equilibri, quindi per forza più o meno vanno bene, perché evidentemente il prodotto finale è un prodotto stabile, ok. In realtà queste reazioni vanno perché questo passaggio, cioè la formazione dell'isonitrile che attacca il carbonio caricato positivamente, avviene con una certa probabilità. Ma il legame carbonio-azoto è un legame doppio polarizzato, quindi è hard. Come fa un doppietto del carbonio, che è stra-soft, ad attaccare questa cosa qui? Questo è, lo vedremo questo particolare in tantissime altre reazioni, per chi ha fatto un po' di chimica dei composti eterociclici, che sono reazioni simili, viene fuori questa stranezza. Ma questa non è una stranezza, perché voi avete qui, è vero sì, un doppio legame carbonio-azoto, ma che è hard. Dovete tenere presente che il doppio legame carbonio-azoto è fatto in questo modo. Carbonio-azoto. Qui c'è il carbonio, qui c'è l'azoto. Mi fai vedere questo doppio legame come è fatto? Ci sarà un elettrone qui e un elettrone qui. Qui c'è l'orbitale pieno di elettroni di legame e qui c'è l'orbitale vuoto di elettroni di antilegame. Questo qua, pi greco. Guarda com'è la situazione. La situazione è che qui ci sarà lo zero, densità di carica. Un po' questo carbonio è caricato più delta, l'azoto è caricato meno delta. Vedi? Questo quindi è qua sotto. Bene. Questo è pieno di elettroni, è super sotto. Diciamo, è molto in basso rispetto all'energia che è qui, alla densità di carica. E questo è vuoto qua sopra. Più sei lontano dalla linea di zero, più sei hard, sia che tu sia caricato negativamente, che tu sia caricato positivamente. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che l'orbitale pieno del doppio legame carbonio-azoto è hard, ma vuol dire che l'orbitale vuoto del doppio legame carbonio-azoto è soft, perché è basso. Ed è per questo che questo doppietto di elettroni reagisce con questa carica positiva, perché gli orbitali hanno la stessa grandezza, hanno la stessa energia e quindi si garantisce che abbiano una grande sovrapposizione, cioè ci vogliono pochi urti perché questi si mettano d'accordo tra di loro e facciano il legame. Pochi urti efficaci vuol dire alta velocità di reazione, grande probabilità che questo step della reazione avvenga. Così accade perché il doppio legame carbonio-azoto è diventato sostanzialmente soft. Ancora più soft lo è diventato perché io l'ho fatto reagire carico. Vedi che qui l'azoto del doppio legame carbonio-azoto è caricato positivamente. Il doppio legame carbonio-azoto è polarizzato. I elettroni stanno più vicini all'azoto e più lontani dal carbonio. Nell'istante in cui io ci metto una carica positiva sull'azoto, l'orbitale dalla parte dell'azoto diventa più piccolo, perché la carica positiva del nucleo tende ad attrarre gli elettroni e quindi diventa più piccolo. Questo che cosa vuol dire? Che il doppio legame carbonio-azoto sta diventando covalente, perché all'inizio era un doppio legame la cui parte centrale era fatta così. Qui c'è il carbonio e qui c'è l'azoto. Vedi, gli elettroni stanno qua. Quando l'azoto è caricato positivamente, questo si piega e quindi si allarga da quest'altra parte. Diventa un doppio legame covalente. Essendo covalente diventa più soft e anche per questo motivo questo doppietto di elettroni appiccica lì, attacca lì. Guarda come solo questo piccolo passaggio c'ha dietro tutta questa filosofia. Noi una volta eravamo abituati a scrivere le reazioni, freccia, allora succede così, togli l'acqua, l'equilibrio, qua e là, su e giù. Invece ora ogni piccolo elettrone si muove perché c'è una ragione, altrimenti non lo fa. Chiaro che nelle reazioni di molti componenti voi dovreste essere in grado di stabilire prima tutti questi parametri e, non è complicato. Può sembrare complicato ora, ma fra 10 minuti apparirà una cosa molto più facile. Abbiamo capito questa reazione. Che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto un composto che ha un gruppo amminico, un C doppio legame O e un NH, cioè un gruppo amminico. Ma soprattutto abbiamo ottenuto una molecola in cui questa situazione è legata a un gruppo funzionale amminico e qui a un gruppo funzionale amminico. Ma abbiamo fatto un prodotto 1,2 di sostituito. I prodotti 1,2 di sostituiti, che sono spesso ritrovati in composti anche naturali, in natura, nei farmaci e in tante altre cose, sono difficili da farsi. Perché noi sappiamo far bene con le reazioni di condensazione gli 1,3 e gli 1,5, ma sappiamo fare malissimo gli 1,2 e gli 1,4. Allora questa reazione assume grande importanza perché sostanzialmente ci si potevano fare un sacco di cose che poi sono i prodotti che la reazione di Yugi ci permette di ottenere. Un'altra reazione che sicuramente voi avete visto è la reazione per fare gli amminoacidi. In questo dipartimento, per vari motivi, i chimici industriali non riescono mai a fare le sintesi di composti naturali, come gli zuccheri, i glucosidi, gli amminoacidi, eccetera. E quindi ogni tanto si ficcano negli altri corsi per completare questo tipo di preparazione anche sotto mentite spoglie le sintesi degli amminoacidi. La sintesi di Strecker è una sintesi che ovviamente parte da, che ne so, un composto carbonico che può essere una aldeide, ci devi mettere dentro una ammina, scriviamola così per il momento, potrebbe essere anche ammoniaca, ci ho messo un'ammina primaria, e poi ci devo mettere dentro del cianuro. Sostanzialmente questa è la reazione. Quindi è una reazione Strecker S3CR. Strecker 3 multicomponente. Che cosa accade? Come vedete, questa reazione, come quella di prima, ha la caratteristica di far reagire un composto carbonico con un'ammina. Noi sappiamo che queste sono reazioni di equilibrio. Bene, allora noi potremmo scrivere almeno due meccanismi di reazione. Che tra parentesi, alcune volte sono scritte sui libri, ma uno solo è vero, l'altro no. Guardate, questo e questo interagiscono insieme. Si tratta di un equilibrio, come abbiamo fatto prima. Toglieremo l'acqua e otterremo questa immina. Questa immina reagisce con il nitrile. Il nitrile reagisce, ovviamente, più delta qui sopra, e il risultato finale sarà RCHC, triplo legame, NNR meno che in acqua, ovviamente, darà origine a RCHC, triplo legame, NHR. Questo non è ancora il nostro amminoacido, ma quando faremo l'idrolisi del nitrile, che sarà la reazione che viene dopo, e noi sceglieremo un sistema per ottenere l'idrolisi del nitrile, ecco che abbiamo CHCOOH, NHR, e ci siamo fatti il nostro amminoacido. Quindi la sintesi di Strecker è una sintesi multicomponente. Quello che si sta facendo noi qui è che invece di usare l'ammina dovremmo tentare di utilizzare il sale d'ammonio. Il sale d'ammonio ci permette di arrivare qui con questa cosa qui caricata positivamente. Ed ecco che noi abbiamo questo atomo di carbonio che ancora una volta è pronto per essere agganciato dal cianuro. Cianuro che come nucleofilo non è un granché, però ha una sua hardness. Il CN- è più hard dell'isocianato. Uno, perché la carica negativa è una vera e propria carica negativa, quindi l'orbitale che tiene questa carica negativa è più piccolo rispetto all'orbitale del carbonio dell'isocianato che teneva il doppietto di elettroni. In questo contesto dovete ricordare che questo orbitale, quello del cianuro, è un orbitale sp, piccolo, hard, rispetto a un sp2, rispetto a un sp3. Quindi voi sapete che l'alchino, sotto forma di sale, è più hard del corrispondente alchene. Sotto forma di sale, del corrispondente alcano. Questo è soft, questo è hard, questo perché è un orbitale sp, questo è un orbitale sp3. Più piccolo è l'orbitale, più hard è, che sia acido che sia basico. In questo caso è basico. Tenetelo presente. Quindi questo è il meccanismo che noi dobbiamo scrivere. Non possiamo scrivere, come ho visto da alcune parti, il CN- che attacca il CO. Cosa succederebbe se il CN- attacca il CO? Che noi abbiamo RCCN o meno H. Questo diventerebbe OH e poi l'ammoniaca o l'ammina farebbe una sostituzione di questo tipo. Ma questa non accade mai. Come fai a buttare fuori un OH- con un'ammina? Non è proprio possibile. Per cui questo tipo di meccanismo che noi possiamo scrivere in alternativa è chiaramente sbagliato. Quindi quello che accade, o comunque se accade un po', ti fermi qui e torni indietro. Questo passaggio qui, noi lo ritroviamo anche per chi avesse per caso fatto la chimica degli zuccheri in una reazione che è la demolizione dei glucosidi che da 6 passano a 5. Bene, qui a un certo punto c'è uno meno che butta fuori il CN-. Questo vuol dire che la reazione è di equilibrio, no? Quindi anche se c'è, però ti fermi qui, avanti non ci vai. Nota che cosa si cerca di fare. si cerca di mostrare che delle reazioni che non c'entrano niente, che sono in diverse parti del programma, sono sostanzialmente la stessa reazione. E quindi sostanzialmente le reazioni sono di due tipi, acidi e basi, basta. Se uno è in grado di vedere la chimica da questo punto di vista, è chiaro che va avanti alla grande. Quindi, ovviamente, da un punto di vista di green chemistry, come si diceva, non possiamo usare il cianuro di sodio perché è pericoloso, e la gente ha pensato di poter utilizzare il cianuro d'ammonio. Cianuro d'ammonio, cioè l'ammoniaca da una parte e il CN dall'altra, un solo reagente in qualche modo ti fa risparmiare, perché te usi qualcosa che ha dentro di sé sia la parte amminica che la parte nitrilica che ti serve. Oppure, se devi usare l'ammoniaca, userai il cianuro di zinco, perché il cianuro di zinco chiaramente si scinde meno facilmente del cianuro di sodio. E che, in parole povere, te devi stare in una condizione in cui sostanzialmente il tuo pH deve essere un pochino basico, perché se è un pochino acido, si sviluppa l'acido cianidrico che te non lo controlli, perché è un gas. Invece, se è tutto basico, c'hai il CN- che ti sta nella tua soluzione acquosa e non ti dà fastidio. Alla fine l'operaio laverà tutto con una soluzione acquosa di permanganato, quindi qualsiasi tipo di cianuro c'è rimasto in giro verrà trasformato in CO2 acqua e al massimo ossidi di azoto. Sintesi che si fa industrialmente e che è una reazione multicomponente. Così, analogamente, possiamo fare un'altra reazione, che è la cosiddetta amminazione riduttiva, che serve per fare le ammine. Ancora una volta, io parto da un composto carbonilico, per esempio un chetone, ci metto dentro l'ammoniaca o un'ammina e ci metto insieme, in un colpo solo, idrogeno e palladio su carbone. È una reazione multicomponente perché ci sono tre cose: il chetone, l'ammoniaca e l'idrogeno, palladio su carbone. Normalmente in laboratorio noi che cosa facciamo? Facciamo questa reazione in due step. Primo, e lo scriviamo, questo, ora sappiamo che dobbiamo usare il sale d'ammonio. E ora sapete anche perché, se qualcuno di voi l'avesse fatto, i chimici di Pisa credo di no, la prova analitica delle aldeide dei chetoni con il fenilidrazone. Cosa si prende? Si prende il composto carbonilico, si prende la fenilidrazina solforica no cloridrica, cioè caricata positivamente con il controione solfato, e si mescolano insieme e precipita il 2,4 di nitro fenilidrazone, rosso, arancione, dipende dal colore. E questa reazione ti dice immediatamente che tu hai il composto carbonilico. È una prova per fare anche costruire dei derivati cristallini che opportunamente purificati, ne farai il punto di fusione, vai a leggere sui libri che punto di fusione te c'hai e lo paragoni con quello che è noto in letteratura, e così hai la probabilità di trovare anche, gli antichi facevano così, che tipo di composto aldeidico chetonico hai, con una prova sia qualitativa, perché ti dice che hai un composto carbonilico o aldeidio chetone, e sia da un punto di vista preciso, perché con il punto di fusione lo identifichi perfettamente questo composto carbonilico. Ma noi cosa si dice sul libro? Si dice che noi questa reazione la dobbiamo fare a pH tra 4,8 e 5,2. Perché? Non basta un po' di H+. No, non basta. Se te ci metti troppo H+, l'H+ si attacca tutto all'ammoniaca. L'ammoniaca non ha più doppietti di elettroni da donare e quindi non è in grado di attaccare il CO. D'altra parte, se te ci metti poco H+, l'H+ non ce la fa a protonare l'ossigeno. Noi ci aspettiamo che ci sia questo aggeggio, perché l'ossigeno protonato permetterà a questo legame carbonio-ossigeno di diventare più covalente e quindi l'orbitale vuoto del doppio legame carbonio-ossigeno diventerà un pochino più soft e quindi l'ammoniaca, che ovviamente ha un doppietto di elettroni softissimo, ci attacca perché se no non ci attaccherebbe, o comunque ci attaccherebbe malvolentieri, quindi noi ci aspettiamo sempre questo. Bene, a questo punto, se c'è poco H+, questa cosa non la fa. Quindi ci vuole una finestra tra 4 e 8 e 5 e 2 perché un po' di ammina libera deve rimanere, un po' di composto carbonilico complessato all'H+ ci deve essere e quindi quello che si ha è il primo step, cioè la formazione dell'immina RCH doppio legame NH+. Immina che siccome siamo in un ambiente lievemente acido è protonato. Che cosa fa il chimico organico a questo punto? Dice, questa è una reazione di equilibrio, la formazione dell'immina. Quindi per far andare avanti le cose ci devo togliere l'acqua. E come fa un industriale? Beh, fa la reazione per esempio in benzene e fa bollire l'azeotropo benzene acqua portandosi via l'acqua. Oppure toluene, perché si dice che il benzene è cattivo, mentre il toluene è buono, cosa a cui io non credo minimamente. Ma non solo io, anche i chimici industriali della comunità europea non ci credono, quindi non dico nulla di nuovo. Il fatto che il benzene faccia bene e che faccia male, il toluene fa bene, è scritto solamente su dei documenti della comunità europea. Ciò che è scritto, perché una cosa sia scritta non vuol dire che sia vera. Ecco. In questo contesto purifico questo, quando sono in laboratorio, togliendo l'acqua, perché se no la reazione non va avanti, è un equilibrio. Sapete che una immina, se la butto nell'acqua, in automatico tornerà indietro. Perché l'immina torna indietro in automatico? Perché agli elettroni gli piace stare nel largo. È più grande un doppio legame carbonio-ossigeno, 12-16, o un doppio legame carbonio-azoto, 12-14. Il doppio legame carbonio-ossigeno è più largo, quindi termodinamicamente parlando l'immina è meno stabile del chetone o dell'aldeide di partenza. Quindi non ce la fai, se non togli tutta l'acqua, a portare via la tua immina. Dopo, in un secondo bulk di reazione, in un secondo reattore, ci metti l'idrogeno e il palladio per fare la tua reazione di idrogenazione, che si chiamerà poi amminazione riduttiva alla fine, perché prima hai amminato e poi hai ridotto. No, nel bulk di reazione industriale si fa tutto in un colpo solo. Perché? Perché si usa lo stesso principio del fenilidrazone. Ma il fenilidrazone viene anche se noi non togliamo l'acqua. Non so se ci avete mai pensato. E come mai? In tutti gli altri casi con le immine dobbiamo fare i salti mortali per togliere l'acqua, zeoliti, distillazioni azeotropiche, trucchi per uccidere l'acqua mano a mano che si forma. E col fenidrazone no. Ma perché il fenidrazone è solido? E se è solido si scioglie, se non si scioglie nell'acqua, si toglie cioè mano a mano che si forma dall'ambiente di reazione. Quello è il trucco. Tutte le volte che voi avete un derivato di un'ammina che viene fuori da un composto carbonilico e un'ammina è solido, è inutile che togliate l'acqua perché vi si formerà da solo. Cosa che non sta scritta su nessun libro, ma io ve la sottolineo. Ma allora qui come mai usiamo lo stesso principio? Certo, perché la reazione è di equilibrio. Benissimo, noi ci mettiamo dentro l'idrogeno e il palladio su carbone. Benissimo. Quando si forma un poco di ammina protonata, quel poco di ammina protonata reagisce con l'idrogeno e palladio su carbone e si toglie dall'equilibrio. Quindi il secondo step della reazione mi aiuta, perché se no non otterrei il prodotto finale, è lui che praticamente reagisce con il sale di ammonio per darne la riduzione alla fine ad ammina, togliendo l'immina, il sale di ammonio, mano a mano che si forma. Non c'è bisogno quindi di fare un secondo step, si fa tutto in un colpo solo. Perché l'idrogeno e palladio reagisce bene? L'idrogeno e palladio, scusate, ma io non potrei fare... Innanzitutto l'idrogeno e palladio è un palladio idruro, perché il palladio più H2 fa palladio di idruro. Il palladio di idruro fa le stesse cose che fa BH3 o B2H6, cioè il reagente di Brown, con gli alcheni. Il palladio idruro è un idruro soft, perché il palladio e l'idrogeno hanno la stessa elettronegatività, come il boro e l'idrogeno. Non è mica il litio alluminio idruro, in cui H- si comporta da nucleofilo, è palladio idruro. Bene, questo palladio idruro reagisce bene, ovviamente, su legami di tipo carbonio-carbonio, perché sono soft. E allora, come fa a reagire con un doppio legame carbonio-azoto, che invece è più hard? Reagisce col doppio legame carbonio-azoto, che è più hard, perché è protonato l'azoto. E come al solito, la protonazione dell'azoto tende a far diventare il doppio legame carbonio-azoto un legame covalente. Perché fa diventare più piccolo il doppio legame pi greco carbonio-azoto sull'azoto. E quindi aumenta la grandezza del lobo dell'orbitale di antilegame sul carbonio. È incredibile. Ma non è finita qui. Ma perché il palladio idruro che io ho in soluzione non mi va a rompere le scatole al doppio legame carbonio-ossigeno? Perché sostanzialmente lo sapete che se io prendo un aldeide e un chetone e ci metto il palladio sul carbone, questi si riducono. Ma chi è più hard? Il carbonio-ossigeno o il carbonio-azoto? Il più polare è sicuramente il carbonio-ossigeno, quindi è più hard. È talmente più hard che se il palladio idruro deve scegliere un reagente, qualcuno sceglie con una velocità di reazione miliardi di volte superiore a quella che avrebbe sul carbonio-ossigeno, sceglie il carbonio-azoto. Perché se no noi in questa reazione avremmo anche dell'alcol, che sarebbe il prodotto di riduzione del chetone o dell'aldeide che ci abbiamo messo dentro, cosa che non è così. Allora vedi, da una parte questa reazione multicomponente avviene perché c'è un equilibrio, ok. Dall'altra parte riusciamo a spostare l'equilibrio nell'ambiente di reazione, ok. Ma il palladio idruro si deve ricordare che deve reagire con doppio legame carbonio-azoto e non andare a toccare il doppio legame carbonio-ossigeno. Voi ci avete sempre, dovete ricordare due cose fondamentali. Esistono solo nella vita, nella chimica, tre gruppi funzionali. Non ce ne sono tantissimi, sono solo tre gruppi funzionali della chimica. Legame semplice, legame doppio e legame triplo. Quindi gli alcheni, le aldeidi e i chetoni e le immine sono la stessa cosa. Ma gli alcheni sono legami pi greco covalenti. Le aldeidi e le immine sono polarizzate, quindi sono più hard. Questo è il motivo fondamentale per cui io vado poi a ridurre con il litio alluminio idruro un aldeide e un chetone, ma non vado a ridurre con il litio alluminio idruro un alchene. Questo è il motivo per cui un alchene lo riduco con l'idrogeno e palladio, ma faccio fatica a ridurre un aldeide e un chetone con l'idrogeno e il palladio, perché sono duri da ridursi, perché l'idrogeno e palladio è un reagente soft, il doppio legame carbonio-ossigeno è un reagente a un orbitale che non è compatibile con la hardness dell'idruro di palladio. In questo contesto, quindi, se noi facciamo una scala, la riduzione del palladio idruro con un doppio legame carbonio-carbonio è velocissima, carbonio-azoto un pochino più lenta, carbonio-ossigeno lentissima. Questo ci permette di fare una reazione multicomponente. Allora scoprite come in realtà sto giocando, si può dire di astuzia, ma insomma non lo so neanche fino a che punto. Ne approfitto per colmare tutte quelle migliaia di lacune che ci avete dell'organica 1 e dell'organica 2 facendo finta di parlare di green chemistry. Ma sostanzialmente è l'unica possibilità che io ho per fare in modo che voi usciate di qui come prodotto finito. Perché la chimica che si insegna nei corsi triennali è una chimica risibile. E che tutte queste sciocchezze, che però sono importantissime, non vi vengono insegnate. E invece voi le dovete sapere. Un'altra reazione importante è la reazione di Ansch, ANTCH, al di là del nome, con l'H davanti. quello che ci interessa è usare la reazione di Hantzsch per fare degli eterocicli importanti. Ed è una reazione multicomponente che ha una grandissima validità, soprattutto perché produce roba importante da un punto di vista farmacologico. Allora, come al solito, abbiamo, che ne so, un composto fatto così. K2 COCH3 che, come l'abbiamo scritto, lo possiamo anche chiamare ed è l'acetilacetato d'etile. Composto che costa poco. Ci mettiamo un aldeide che potrebbe essere l'aldeide benzoica, poi capirete che ci sono tutte le varianti possibili. Ci mettiamo un'altra molecola di acetilacetato d'etile. E ci mettiamo una molecola, per esempio, di ammoniaca. Tenete presente, o un'ammina anche, primaria. Tenete presente che quindi questa reazione è una reazione di Hantzsch, H4CR, perché ci sono quattro componenti che reagiscono insieme. Come tutte le reazioni, questa è una reazione di condensazione tra composti che presentano caratteristiche basiche e composti che hanno idrogeni acidi. L'acetilacetato d'etile ha degli idrogeni molto acidi e questi, da un punto di vista di equilibrio, possono essere estratti da una base debole come potrebbe essere un'ammina. Io guarda, l'ho messo già belli in condizioni di far vedere come poi verrà fuori la molecola finale, no? Però noi guardiamo questa serie di cose che abbiamo messo nel bulk di reazione e possiamo decidere di immaginarci un cammino. Questo cammino sarà l'ammoniaca, che è non solo il reagente, ma anche la base che ci serve per fare quello che stiamo per fare. Strappare un idrogeno acido a questo signore qui. Quando noi abbiamo strappato un idrogeno acido a questo signore qui, che è l'acetilacetato d'etile, ci possiamo immaginare che l'acetilacetato d'etile, con un idrogeno in meno, farà una reazione di condensazione con l'aldeide benzoica. Sostanzialmente, noi ci potremmo chiedere, ma perché l'acetilacetato non condensa con se stesso? Perché voi sapete che cosa stiamo facendo qui? Una cosa che si chiama condensazione sostanzialmente pseudoaldolica, sarebbe una condensazione di Wickman, ma insomma, una condensazione pseudoaldolica incrociata con altri prodotti e diretta alla formazione di un prodotto solo. Quando te metti insieme due, tre prodotti che condensano insieme, te devi essere sicuro che in qualche modo questi ti diano un solo prodotto e non una miscela di prodotti. Quindi condensazione incrociata tra varie specie, ma diretta alla formazione di un solo prodotto. Incrociata diretta sono i due aggettivi che si usano in questo contesto. Il malonato non condensa con se stesso per lo stesso motivo del perché l'acetilacetato non condensa su se stesso. Quegli idrogeni acidi che sono stati estratti da una base piccola come l'ammoniaca hanno formato un anione che ha una marea di formule limiti di risonanza. Questo doppietto di elettroni, se tu scrivi tutte le formule limiti di risonanza, sta su questo ossigeno, su questo carbonio, su questo carbonio, su questo carbonio e su un altro ossigeno. Quindi sta su cinque elementi, di cui due sono ossigeni, quindi estremamente elettronegativi, grande peso, quelle formule limiti di risonanza, che portano la densità di carica sull'ossigeno. Quindi è una nuvola elettronica grossa, grande, un orbitale molecolare gigantesco, quindi strasoft. Bene, e che volete? Che una cosa strasoft reagisca con un chetone o con un estere, cioè un atomo di carbonio legato a un sacco di ossigeni che rende tutto quel carbonio estremamente elettropositivo? No, perché quei carboni sono troppo hard come acidi. L'aldeide benzoica, poverina, è vero che da una parte c'è il doppio legame carbonio-ossigeno, ma dall'altra parte c'è anche un barattolo di elettroni che che sono coniugati con il doppio legame carbonio-ossigeno. Quindi una nuvola elettronica estremamente vasta e quindi soft. Per cui il carbonio dell'aldeide benzoica risulta il più soft di tutti. Ed è per questo che avverrà questo tipo di reazione. Quale sarà il risultato che noi ci possiamo attendere? Il risultato che ci possiamo attendere, lo scriviamo qui, sarà che ci sarà alla fine il legame tra il carbonio interno dell'acetilacetato e il carbonio ex-carbonilico dell'aldeide benzoica. A questo punto, quello che succede di solito, siccome tra parentesi qui abbiamo una 36 kcal di stabilizzazione del benzene, l'acqua spontaneamente se ne va da sola. Per questo che di solito viene chiamato il processo di crotonizzazione. Viene chiamato processo di crotonizzazione perché l'aldeide crotonica è, o l'acido crotonico è l'acido più semplice che ha un doppio legame coniugato al doppio legame CO. Quando qui c'è un anello aromatico, questa cosa accade da sola. E noi che cosa abbiamo qui? Abbiamo questo prodotto. L'ammoniaca si guarda intorno e non c'ha più idrogeni acidi, ma però abbiamo gli idrogeni acidi di questo secondo acetato. E quindi questo secondo acetilacetato reagisce. L'acetilacetato sotto forma di anione con se stesso non reagisce perché uno è soft e l'altro è hard. Quindi, però, abbiamo creato un altro sito soft. Guardate, qui c'è il nucleofilo e qui abbiamo un doppio legame carbonio-ossigeno che potrebbe attaccare il doppio legame carbonio-ossigeno 1-2 oppure un doppio legame carbonio-carbonio coniugato col carbonio-ossigeno che potrebbe essere attaccato per vinilogia. Tutto quello che accade qui accade anche qui per le formule limiti di risonanza di sistemi coniugati. Quindi questo è soft ed ecco che quello che succede è la seguente cosa, e noi possiamo scrivere il prodotto che viene fuori da qua. Vedi perché ci sono i motori che sono legati sulla hard e soft, che se te non ne tieni in considerazione, CH fenile, non capisci come mai le reazioni vengono fuori. Metile, CO, O, etile. A questo punto, quello che succede, ovviamente, è che l'ammoniaca non può fare altro che reagire con il doppio legame carbonio-ossigeno. Sono tutte reazioni di equilibrio. C'è poco da fare. E queste reazioni di equilibrio producono come equilibrio questo tipo di operazioni. Ma che cosa succede a questo punto? A questo punto può succedere. In realtà siamo in acqua, quindi questo enolo lo possiamo scrivere sotto forma ETOOC, sotto forma di composto carbonilico. Metile, CH, fenile, CO, etile, doppio legame, NH, metile. A questo punto, sempre perché siamo in presenza di equilibri, possiamo chiudere la molecola buttando via acqua e il prodotto finale è questo, EVG, scriviamo EVG, Electron Withdrawing Group, cioè gruppo elettrone attrattore, così. Tenete presente che quindi questa reazione avviene perché sono tutti equilibri. La reazione poteva anche andare in un'altra direzione. Con l'hard e soft abbiamo visto che va in una sola direzione, ma soprattutto questo signore qui è stabilizzato dalla presenza di questi due legami in posizione ciclica a 6 termini e questo evidentemente stabilizza molto questa molecola, che è ancora più stabilizzata quando qui c'è un gruppo R. Quando io tratto con idrogeno e palladio questa reazione, in un secondo step, ciò che viene fuori è una molecola che ha un certo interesse, perché una molecola fatta così. Metile, metile, COOR, COOR. E si scopre una cosa interessante, queste sono reazioni che fanno per esempio in Guidotti, che qui c'è un centro che ha una caratteristica. La molecola è simmetrica, in ogni caso, però questo è un centro chirale e questo è un centro chirale. Quando io vado a fare questa reazione utilizzando un idrogeno e un catalizzatore di palladio chirale, non vengono fuori tutti gli asterisomeri che devono venire fuori, ma ne viene fuori solo uno. Che ne so, l'RR, che ovviamente a questo punto potrà essere in parte decarbossilato. Cioè, puoi togliere qui il COOR. Come l'hai decarbossilato, questo induce attività ottica su questo e te c'hai due centri chirali di identificati perfettamente otticamente attivi. Questo è una molecola che è un farmaco, che è un pezzo di un farmaco molto importante. Tutto in un colpo solo, perché alla fine si potrebbe fare l'idrogenazione anche in un colpo solo, cioè mettendoci dentro sempre l'idrogeno e il palladio in un colpo solo, verrebbe fuori sempre la stessa molecola. La Guidotti non lo fa, credo che faccia l'ultimo passaggio di idrogenazione proprio perché usa un catalizzatore importante e bisogna che ci siano delle condizioni un pochino più particolareggiate, ma se te non avessi problematiche legate alla attività ottica, addirittura potresti fare anche l'ultimo step insieme, perché chiaramente il benzene nelle condizioni di reazione sicuramente non si riduce a ciclesano. Questa reazione è ricca di contenuti. Noi possiamo fare una variante di questa reazione di Hansch per fare anche eterocicli a 5 termini, cioè i pirroli. Tenete presente che si fanno le piridine in generale con questa reazione. Piridine. Nella sintesi degli eterocicli tenete presente che con queste reazioni è facile fare eterocicli simmetrici. Ma è difficile sempre, è una regola, fare eterocicli non simmetrici, cioè che abbiano gruppi attaccati all'anello aromatico in modo da disimmetrizzare l'anello stesso. Noi prendiamo questa volta questo composto qui e lo facciamo reagire questa volta CH3COOR. Noi abbiamo quindi un composto, come dire, funzionalizzato, che è questo. Questo è come se fosse l'acetil acetato detile 2-bromo. E questa invece è la monoaldeide corrispondente al malonato di etile. In questo contesto noi ci mettiamo dentro la nostra solita base, più NH2R, un'ammina. Quindi, 3 component, la reazione di Hansch, variante 3 componenti, H3CR. Che cosa succede? Guardiamo bene questa reazione, cerchiamo di capire perché si ottiene quel prodotto lì, perché anche qui si potrebbe ottenere di tutto. Ovviamente, come ho già detto, noi usiamo non l'ammina, ma è importantissimo questo, perché magari nei libri non si capisce questa cosa, ma usiamo il sale d'ammonio. Usiamo il sale d'ammonio. Perché? Perché noi abbiamo bisogno comunque di un'ammina che ci rompa le scatole a uno di questi idrogeni acidi, vedremo subito quale, ma abbiamo bisogno anche di una lieve catalisi acida per fare la reazione di trasformazione del doppio legame carbonio-ossigeno in doppio legame carbonio-azoto, cioè la reazione di sostituzione al carbonio carbonilico, si chiama così. Ma vedremo che l'utilizzo dell'H+ ci serve proprio per evitare che qualche altra reazione prenda il via indesiderata. Allora, la prima cosa, guardiamo questa reazione e vediamo subito che ci sono degli idrogeni acidi. E sul libro c'è scritto, gli idrogeni acidi sono questi, cioè quelli dell'aldeide come dire, della monoaldeide del malonato di etilico. Ma perché non potrebbero essere questi? Perché il COR ce l'hanno tutti e due, questi atomi di carbonio. Da una parte c'è un aldeide e dall'altra parte c'è un chetone. Dobbiamo decidere quale dei due è più acido. Lo possiamo anche decidere quale dei due è più acido. È più acido, è più acido l'aldeide. Ma ci devo pensare perché non la so a memoria io. In queste condizioni, cioè nelle condizioni basiche, viene strappato per prima l'idrogeno acido dell'aldeide. Ma se fossimo in condizioni acide, sarebbe il contrario. Sarebbe il contrario. Perché lì c'è un problema che riguarda l'enolizzazione. Cioè, se io ho CH3COH, la base mi strappa più facilmente questo e quindi io otterrò di conseguenza il composto anionico questo. Ma se io ho questo in ambiente acido, la cosa che succede è che si forma l'enolo più stabile perché qui c'è un CH3 che stabilizza, perché questo è un alchene. L'alchene è più stabile quando ho un CH3. Nel caso dell'aldeide, qui ci sarebbe un idrogeno, quindi l'enolo dell'aldeide è meno stabile dell'enolo del chetone. Ma l'enolato dell'aldeide è quello che si forma prima in ambiente basico perché l'idrogeno è più acido. Quindi lo so che forse non ci avete mai fatto caso, ma qui si entra in un problema che noi elaboravamo a livelli di chimica organica 3. Quando esisteva una chimica organica 3, ora non c'è più niente, quindi. Però, anche se io sono abbastanza sicuro che questo sia più acido, ma che differenza ci sarà di acidità tra questo idrogeno e quest'altro? Ma qui c'è un bromo, però. Qui c'è un bromo. Il bromo, come sapete, fa acquisire a quell'idrogeno lì un'acidità della Madonna. Dice, ma come fai a saperlo? Bah, te guarda nella reazione del iodo formio, in questo caso del bromo formio. Quando voi prendete un composto fatto così, RCOCH3, e lo trattate con OH- e BR2, cioè siete nelle condizioni del bromo formio, o dite pure ipobromito di sodio, che è la stessa cosa, l'OH- strappa l'idrogeno acido del metile e cominciano ad entrare l'atomo di bromo. E non ci si riesce a fermare al primo step, perché questi idrogeni diventano sempre più acidi quando un atomo di bromo c'è qui. E quindi c'entra il primo, il secondo, il terzo, e poi l'OH- entra sul carbonio carbonile che butta fuori il CBr3-. Questo ci fa capire come l'addizione di un atomo di bromo aumenta l'acidità. Quindi questo dovrebbe essere quello più acido. Te pare? Bene, sì, ma noi in che condizioni siamo? Noi sostanzialmente non siamo in condizioni basiche, siamo in condizioni lievemente acide. Siamo in condizioni lievemente acide. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tra i due composti che devono condensare, ce n'è uno che si comporta da acido e uno che si comporterà da base, sostanzialmente. Ebbene, quello con l'atomo di bromo in questa condizione qui, ha meno possibilità di comportarsi da base, perché in ambiente acido, siamo in ambiente acido, il suo enolo si forma meno volentieri dell'enolo dell'aldeide. Perché l'enolo dell'aldeide è caratterizzato dall'avere un atomo di bromo in meno, che è un gruppo elettrone attrattore e che quindi destabilizza l'ipotetica olefina che io ho scritto qua davanti, che quindi non enolizza. Non enolizza. Oh. Invece adenoizzare è solamente la parte della monoaldeide del malato. Per cui, morale della favola, questo composto qui, che è quello realmente esistente, che io avevo prima scritto sotto forma di anione, ma in realtà è l'enolo che reagisce, quindi siamo in condizioni di catalisi acida per fare la reazione di condensazione, reagisce, e lo scrivo qui, in questo modo. Questo va così e questo va così. Il legame carbonio-bromo, che com'è? È più delta meno delta, non è più meno. Quindi è soft. Tutte le reazioni di sostituzioni sono reazioni legate alla softness. Tutte le reazioni di eliminazioni sono legate alla hardness. Per eliminare ci vuole sostanzialmente un nucleofilo forte che sia una base forte. Per sostituire ci vuole un nucleofilo debole, cioè un nucleofilo forte che sia una base debole. Un nucleofilo forte che sia una base debole, perché sennò avviene l'eliminazione. Quindi vedi, il doppio legame carbonio-carbonio, sito soft, qui, agisce sul carbonio-bromo, sito soft. Vedi com'è pallosa la reazione fatta in questo modo qui? Cioè, ci sono tutta una serie di problematiche che ci fanno capire come avviene solamente questo. Questo reagisce con la mia ammina. La mia ammina, per non farla troppo lunga, fa la stessa cosa che nella reazione di Hansch faceva l'ammoniaca prima. Cioè prendi due carbonili e li mette insieme. Li mette insieme, la reazione finisce con questo solamente aspetto condensativo, per cui voi ci avete COR, COOR, N, qui c'è un idrogeno, qui c'è un metile e qui c'è il gruppo R della mia ammina, che può essere anche un idrogeno se io l'ho fatta questa reazione con l'ammoniaca. E mi sono fatto il pirrolo, un pirrolo sostituito in un modo molto particolare. Questi due gruppi COOR, infatti, possono essere trasformati in altri gruppi. Uno dei due, o tutti e due, in reazioni successive, possono essere eliminati attraverso reazioni di decarbossilazione, perché basta scaldare il corrispondente acido in presenza di sali di rame, mi sembra che si chiami reazione di Simonini, ma anche altri nomi ovviamente. È una reazione radicalica, esce CO2. Nella chimica green le reazioni di decarbossilazione sono viste molto male, perché perdi un pezzo. E quindi nella economia degli atomi di carbonio non si possono fare. Tenetelo presente. Però in questo contesto noi siamo riusciti a fare, in questo contesto, una reazione multicomponente e a spiegarla sulla base di quella che è la nostra conoscenza sull'hard e soft. C'è un'altra reazione che si chiama, per esempio, reazione di Radicevsky, al di là di come si scrive, che ha caratteristiche analoghe. Noi prendiamo un composto di carbonilico 1,2, un derivato di uno salato, potrebbe essere anche questo. Ci possiamo mettere dentro l'ammoniaca e ci possiamo mettere dentro un altro composto carbonilico, l'aldeide formica. Capite immediatamente che qui do coio coio, nel senso di qualsiasi cosa faccio arriverò come equilibrio sempre in fondo ad ottenere un composto che, dove l'ammina ovviamente avrà preferito reagire, se vogliamo, non con questo che è il più polarizzato di tutti, ma con questo, benissimo, nessun problema. Tra parentesi, di questo ce ne vogliono due, quindi questa è una reazione 1, 2, 3, 4, è una 4CR, Radicevsky, R4CR, che fornisce da prima la diimina. La diimina reagisce con il dicomposto carbonilico, ovviamente non vi sto a scrivere tutti i passaggi dell'eliminazione dell'acqua, però sono banali reazioni di addizione ed eliminazione sul carbonio carbonilico. E alla fine noi ci abbiamo una roba fatta così: azoto, azoto, metile, metile, CH, così, no, così, così. I doppi legami si sono riassestati da soli, spontaneamente, nella giusta posizione per far acquisire all'imidazolo che io ho sintetizzato l'aromaticità più alta. In questo caso la eteroaromaticità più alta. Due cose da notare su questa reazione industriale, fondamentale. Serve per fare gli imidazoli. Gli imidazoli ci serviranno per fare i solventi liquidi ionici, che siccome sono solventi, questo vuol dire che queste molecole devono essere sintetizzate in grande quantità e a basso costo. Quindi queste reazioni multicomponent sono importanti perché chiaramente si fa tutto in un colpo solo. Primo aspetto della questione. Secondo aspetto della questione, noterete una certa simmetria in questo imidazolo. La simmetria in questo imidazolo, quindi due metili e non un metile ed un etile, per esempio, cosa che avrei potuto ottenere partendo dall'opportuno precursore, beh, non ce la voglio. Perché? Perché questo idrogeno è in equilibrio con se stesso attaccato dall'altra parte. Quindi, alla fine, se qui ci sono due metili non se ne accorge nessuno, ma se la struttura non è simmetrica, io ho due prodotti. Due prodotti che sono praticamente in equilibrio tra di loro, che mi incasinano i punti di ebollizione della mia molecola, quindi non la potrei utilizzare neanche come solvente, perché il solvente, il punto di ebollizione o la tensione dei vapori, tutte le altre cose che ha un solvente sono importanti, devono essere ben definite. Classica reazione di cui sicuramente qualcuno avrà sentito parlare è la reazione di Mannich. Spero che qualcuno avesse sentito parlare, magari noi no, però dipende se ha fatto la cosa con la Menikainen, sì. Allora, Mannich fa una serie di cose che sono di un certo interesse. Sostanzialmente, vedi che sono tutte reazioni dello stesso tipo. Prendiamo l'acetone, CH3, COCH3. Ci mettiamo dentro l'ammoniaca, NH3. Anzi, mettiamoci un'altra cosa che mi piace di più, la dimetilammina, e mettiamoci l'aldeide formica. Al posto dell'aldeide formica, visto che siamo a livello di green chemistry, useremo l'1,3,5-triossano. Così non stiamo a mettere le mani sull'aldeide formica. L'1,3,5-triossano è un polimero ciclico, cristallino, si usa facilmente, non te lo respiri, non ti va a finire nel fegato con situazioni estremamente gravi. Ovviamente, come al solito, in catalisi acida, quindi ci sarà una carica positiva e useremo il cloruro del dimetilammonio invece che la dimetilammina. Quello che succede, ovviamente, è che può succedere di tutto, ma la cosa che praticamente accade è che si forma l'addotto. Questo è un addotto molto importante perché viene utilizzato in un sacco di reazioni organiche. Il dimetilammonio, dimetilimmonio. Questo è uno ione carbammonio, si chiama così, perché ha una formula limite di risonanza che porta la carica sia sull'azoto che sul carbonio. Quindi è un prodotto che è stabile ed è anche per questo che si forma abbastanza bene. Quello che accade in questo contesto è che, per esempio, l'acetone, che è l'altro componente della reazione, viene aggredito dall'ammina, e questa ammina quello che tende a fare è togliere un idrogeno acido all'acetone. Ovviamente sono tutti equilibri. In realtà io l'ho scritto come questa ammina tende a togliere l'idrogeno acido. Ricordatevi che siamo in catalisi sostanzialmente acida, quindi non è l'ammina che toglie l'idrogeno acido, ma è l'H+ che c'è in soluzione che trasforma l'acetone nel suo enolo. Bene, l'acetone nel suo enolo, quindi sostanzialmente io l'ho scritto così, ma avrei dovuto scrivere correttamente CH2 doppio legame COH CH3. Capite bene che la driving force, come c'è scritto su qualche libro, è il doppietto dell'ossigeno, che essendo soft può attaccare questo carbonio che abbiamo visto nei precedenti step delle altre reazioni è soft e quindi può essere attaccato da un doppio legame carbonio-carbonio. Allora, il risultato di questa reazione è il seguente: COCH3 CH2 CH2 NRR. Se vogliamo mettere un H+ da qualche parte, lo mettiamo qua. Allora, qui c'è una cosa meravigliosa che accade, perché a questo punto tutto nello stesso ambiente di reazione si fa, solitamente in una miscela di solvente canonica che è acqua-cloroformio. Quindi a un certo punto c'è lo smistamento di una doppia fase dove c'è questo sale, perché questo è un sale, che sarebbe abbastanza solubile in acqua, ovviamente, e non solubile in, e poco solubile in cloroformio. Poco solubile, non solubile. Perché si usa il cloroformio? Perché il cloroformio è il solvente delle reazioni di trasferimento di fase, che si fa con i sali d'ammonio. Siccome questo è un sale d'ammonio, hanno usato il cloroformio. Scaldi. E quando scaldi, succede una cosa interessante. Quella parte di ammina libera che c'è in soluzione, che si comporta da base, vede che qui c'è un idrogeno acido e tende a eliminarlo. Nell'istante in cui questo idrogeno acido viene eliminato, questo qui, cioè la parte ammonio, si stacca. Guardate, lo riscriviamo un attimo qui. Io non tendo a fare un po' la cosa pallosa, nel senso che ogni step ha un suo motivo del perché accade, però fatemelo fare le prime volte, poi magari non lo facciamo più. N R R H più CH2. Sta per succedere una cosa fondamentale, sta per, scaldando, formarsi un doppio legame CH2 che permetterà all'operatore di ottenere un composto carbonilico alfa beta insaturo. Quindi la reazione di Mannich originariamente serviva per fare composti alfa beta insaturi da chetoni e aldeidi senza niente, cioè dove ci fosse solo il composto carbonilico presente. Fare composti carbonilici alfa beta insaturi era molto importante, ovviamente, per un chimico, perché sono prodotti a più alto valore aggiunto, visto che hanno due gruppi funzionali invece di uno, coniugati tra di loro. A livello di organica 1, noi una reazione così l'avevamo già vista. Era la eliminazione di Hoffmann dei sali d'ammonio quaternario. Hoffmann, un signore vecchio con la barba, aveva detto che io posso fare gli alcheni a partire dai sali di ammonio. Metile, metile, H+, H, così. Perché una base, o H-, a 180 gradi, strappa questo idrogeno acido. Questo fa così, il buon gruppo uscente esce e ottengo l'alchene. 180 gradi, o H-. Qui invece scalducchi un pochino e l'ammoniaca ti fa sto lavoro. Come mai? E te mi dirai, sì, perché il prodotto finale è un prodotto stabile, perché il doppio legame che si forma è coniugato col chetone, C doppio legame O. Vero, ma questo che cosa vuol dire? Vuol dire che te parti da qui e la reazione arriva qua. Questo è molto stabile, vero, ma prima devi salire qui. Cioè, ci vuole sempre una forza della Madonna per estrarre quello che è l'idrogeno acido, perché questo idrogeno acido è acido. Certo, nell'alcano normale, nel sale d'ammonio della reazione di Hofmann, questo era un idrogeno che era acido solo perché c'era questo azoto qui, e poi vediamo perché. Qui è acido anche perché c'è questo CO qui, quindi è un acido che può essere strappato in condizioni blande. Una volta che viene strappato, il buon gruppo uscente, che è l'ammoniaca, esce. Ecco perché questa reazione può avvenire. È la stessa reazione di Hofmann, però fatta in un contesto in cui ci vuole meno energia. Perché la reazione di Hofmann richiede tanta energia? La reazione di Hofmann richiede tanta energia, 180 e passa gradi, perché l'idrogeno non è acido. Allora, noi sappiamo che la reazione è una reazione di eliminazione bimolecolare, per cui questo idrogeno è acido per un motivo solo, per il fatto che qui c'è un gruppo elettronattrattore. Perché? Questo gruppo elettronattrattore ha un orbitale di antilegame fatto così, vuoto. Più grosso è l'orbitale di legame pieno, più grosso sarà l'orbitale di antilegame vuoto. Questo vuol dire che qui, quando ci metto lo iodio, quando la base va a prendersi questo idrogeno e ci lascia una bella carica negativa qui sopra, lui è contento di finire qui dentro, perché c'è un orbitale vuoto. Quindi, la presenza di una cosa che attira gli elettroni fa in modo di gonfiare questo orbitale in modo tale che il lobo sull'atomo di carbonio di questo orbitale sia grosso. Questo prevede che la carica negativa sull'atomo di carbonio adiacente sia stabilizzata. L'anione si stabilizza e il resto lo fa da solo. E questo è il motivo del perché nella eliminazione bimolecolare i due aggeggi devono essere antiperiplanari tra di loro. Perché se no questa cosa non accade. Non accade perché se gli idrogeni non sono antiperiplanari, questo orbitale pieno qui non si sovrappone al lobo sull'atomo di carbonio dell'antilegame carbonio X. Non ci si sovrappone. Capita a me? Bene, allora che cosa vuol dire? Che quando io ci metto al posto di X un azoto, il legame carbonio-cloro è grande. Quando diventa più piccolo, io per mantenere questo orbitale grosso, bisogna che aumenti un'altra caratteristica di X, l'elettronegatività. Quindi ci posso mettere l'ossigeno, lo zolfo, l'azoto, ma il cloro è 35, c'ha un orbitale della Madonna, l'azoto è 14, c'ha un orbitale schifoso. Come posso aumentare la grandezza di questo lobetto qui? Te lo do io in Brasile, lo so come si fa. Ci metto un protone qui e allora ecco che l'orbitale diventa grosso. Ecco il significato della protonazione dell'azoto. I vecchi libri di chimica organica dicevano così ci abbiamo un buon gruppo uscente. È certo che c'è un buon gruppo uscente, ma è una conseguenza di come te hai modulato la grandezza dell'orbitale vuoto che ti serve per accogliere la carica negativa che c'è sull'atomo di carbonio vicino. E ti ricordo come si fa a trasformare un alcol in alchene. Se te non lo protoni l'alcol, ecco il cavolo che lo fai l'alchene. Perché, come al solito, l'alcol protonato farà aumentare questo orbitale, che è fondamentale, perché se questo orbitale non è grosso, questo qui non esce. Allora, vedi come è importante capire che qui, quando ci hai messo il selenio nella reazione di Petersen, al posto dell'azoto, questa reazione parte a scheggia, perché il selenio è gigantesco rispetto all'azoto e non hai bisogno di protonarlo. Quindi, reazione di Hoffman, reazione di Mannich, reazione di Koop con gli N-ossidi e le piridine. L'N-ossido è un azoto positivo e un ossigeno negativo. Anche in quel caso te hai un azoto positivo. Queste cariche, quindi, che la vecchia chimica organica mette in giro per dire sì, così otteniamo un buon gruppo uscente, la chimica organica vera, che si interessa degli orbitali molecolari, ti fa capire come mettere una carica positiva sull'azoto vuol dire gonfiare una parte di un orbitale vuoto che ti serve a fare la reazione. Nel contesto della reazione di Mannich, una volta che noi abbiamo ottenuto il nostro prodotto, che vi ricordo essere C, doppio legame C, una struttura del genere, così, questa reazione, a seconda delle quantità di roba che ci mettiamo dentro, può dare i prodotti infiniti. Noi per ottenere questo cosa ci avevamo messo? Ci avevamo messo l'acetone, CH3, CO, CH3, ci avevamo messo l'ereformica, H2, CO, e ci avevamo messo la NN di ammina, catalizzato dagli acidi. E noi abbiamo ottenuto subito questo. Comprendete immediatamente che se noi ci mettiamo ancora di più dell'acetone, l'acetone, che è qua, analogamente, formerà l'anione corrispondente. Questo anione corrispondente attaccherà in posizione 1,4 per ottenere un composto ancora più interessante, cioè un composto che abbia delle caratteristiche più, come dire, più marcate, una molecola più ricca di atomi di carbonio e quindi sicuramente più costosa. E infatti si fa, e quindi addirittura una super multi-component reaction. Una applicazione fondamentale della reazione di Mannich è sicuramente la reazione che riguarda la formazione di derivati importanti, che sono quelli della N,N-dimetiltriptammina. Quindi fate conto, melatonina, serotonina, acido lisergico, tutta questa roba qui, come si fa? Si prende l'indolo più il nucleo indolico, poi ci saranno delle varianti, perché voi sapete che la serotonina e la melatonina hanno un OH da queste parti, che è più o meno acetilato. Ma quindi, per dire, però guardate che questa molecola, se io la tratto con aldeide formica e NN di metilammina, quindi due componenti, più questo tre componenti, io ho a un certo punto l'addotto caricato positivamente, che è questo. Doppio legame, carbonio azoto, soft. Qui c'ho una enammina che attacca il composto in questo modo, l'addotto in questo modo, e io alla fine ottengo, quando gli elettroni si sono ristabiliti e hanno ristabilito la loro aromaticità, questa NN di metiltriptammina, che la gente oggi se la sniffa dalla sera alla mattina per fare rima. Tenete presente che sono composti che hanno un grande valore farmacologico e che sono stati ottenuti praticamente in un soffio. Metti tre cose dentro e ottieni immediatamente la stessa cosa. Vi voglio far notare che questa reazione non è una reazione strana, l'indolo, una molecola strana. Questa reazione qui non è niente altro che una condensazione aldolica, dove al posto delle due molecole di aldeide acetica c'hai le due molecole opportunamente nascoste, una sotto forma di vinilettere e l'altra sotto forma di acetale, fai conto. Vini Letere, Elena Mina. Questo è il tuo Vini Letere. Di qua c'hai l'acetale, cioè qualcosa che è legato due volte all'etero atomo. Questa è una reazione di condensazione dove c'hai l'enolo e l'enolato che sono stati tappati nella loro, diciamo, da gruppi funzionali che proteggono queste due facce della stessa medaglia. Sono molecole neutre, per reagire ci vuole qualcuno che le spinga a reagire. Qui cosa c'era? Un H più, un N più, nessun problema. Ci metto una molecola di magnesio alugenuro, che è un acido di Lewis, questo si protona, questo fa così e questo esce. E io ho ottenuto una reazione di condensazione aldolica. Tutto, però con che vantaggio? Il vantaggio di non usare aldeidi e chetoni liberi, che possono incasinarsi tra di loro. Cioè ho scelto quale dei due componenti, aldeidico chetonico, doveva reagire da base, da nucleofilo, e quale dei due componenti doveva decidere di fare la parte dell'elettrofilo. Uno dei due componenti carbonilici protetto con l'acetale, l'altro protetto col diletere. Tenetelo presente, questa cosa qui. Questa è una reazione che ha inventato un giapponese, ma è una reazione, la rivedremo poi nel corso, perché ci serve per fare un sacco di cose. Ci possiamo inventare un altro tipo di reazioni? Sicuramente una delle reazioni più importanti nella chimica industriale è la reazione di Diels-Alder. Alder, belga, naturalizzato francese. I francesi, sai che tutte le persone che hanno qualche merito sono diventati francesi, no? Te vai al Louvre e sotto la Gioconda c'è scritto Michel Angel. Ma no, si chiama Michelangelo. I nomi delle reazioni, che ne so, francesi, sono tutte francesi. Oppure su i libri di chimica organica russi, tutte le reazioni hanno nomi russi. Le reazioni in Inghilterra hanno tutti i nomi inglesi. Cioè, ognuno ha il suo nome, poverino, ma perché cambiare l'identità dei nomi? Non ha senso. Diels è belga e Alder credo che fosse americano. Loro vincono il premio Nobel dopo che altri due signori, Woodward e Hoffman, avevano vinto il premio Nobel, perché senza Woodward e Hoffman, Diels e Alder non riescono a spiegare la loro reazione. Un DN è un dienofilo, voi sapete perfettamente a questo livello che la reazione di Diels-Alder è questa. E io vi faccio già una reazione multicomponente. Prendo il butadiene, prendo il cicloesene, ma di cicloesene ce ne metto due. La prima cosa che succede è che si ottiene questa cosa qui. La seconda cosa che succede è che un'altra molecola, due di questi, il butadiene reagisce ancora con il prodotto del primo step e noi otteniamo strutture di tipo fenantrenico. Potremmo andare avanti, ma questa è una multi-component reaction, perché io avrei dovuto prendere questa reazione, fare il primo step, prendere questo, toglierlo, rimetterlo in autoclave, posso fare tutto in un colpo solo. Sì, però, e se io avessi in realtà tre pezzi diversi e li metto tutti insieme? Perché qui io sono partito dall'idea che il butadiene non reagisse con se stesso. Ma a me chi me l'ha detto? Cioè, sono proprio sicuro che non succede così, cioè che non si ottiene questo sottoprodotto, o che se si ottiene comunque lo ottengo in piccole quantità, perché lui ce l'ha messo tanto dentro, e se ce l'ha messo tanto, il rischio che la reazione faccia quest'altro giochino c'è, come al solito. La reazione di Gelsander è sotto controllo degli orbitali di frontiera. Gli orbitali di frontiera o sono hard o sono soft. Beh, andiamoli a vedere. Allora, qui non è che c'è tanto problema, ma ovviamente il DNA e il dienofilo, uno si comporterà da base, uno si comporterà da acido, perché uno usa l'orbitale HOMO e l'altro usa l'orbitale LUMO, cioè low unoccupied molecular orbital, cioè quello vuoto. In questo contesto, l'orbitale LUMO è del ciclesene e l'orbitale HOMO è del butadiene. Il ciclesene ha un orbitale abbastanza basso come energia, per cui è più facile che il butadiene reagisca in qualche modo con il ciclesene per dare questo tipo di prodotto. Dopodiché si è consumato tutto il ciclesene e quindi ci possiamo aspettare che se io vado avanti con la reazione, questo continui a reagire con questo. Questo prevede però che il butadiene non voglia questo orbitale, che abbia quindi un hardness completamente diversa. Se io faccio un discorso più complicato, potrei trovarmi di fronte a un obiettivo del genere. Che vi faccio vedere qua. Io ho tre dieni fatti in questo modo. Uno è il butadiene normale. Uno è un butadiene con un sostituente in posizione 2, elettrone attrattore, e l'altro potrebbe essere, che ne so, il mio... arrivederci. Il mio ciclesene con un gruppo OR. Allora, qui bisogna capire. Il ciclesene con un gruppo OR è sostanzialmente un vinilete reciclico. Che tipo di proprietà conferisce il gruppo R sul doppio legame carbonio-carbonio? E qui bisogna fare un discorso fatto così. E questo vi servirà anche come chiave di lettura generale. Guardate come è fatto il legame carbonio-carbonio. Il legame carbonio-carbonio è fatto così. Vediamo che ci servono questi disegnetti che nessuno sa che cavolo servono in chimica organica. Così. Facciamo il carbonio-ossigeno. Carbonio-ossigeno è questo, è sempre qui, è sempre qui. L'ossigeno è sotto. Vedi? Questo diventa hard, pieno, e questo diventa soft, vuoto. Bene. Questo è il motivo del perché il chetone reagisce con litio alluminidruro, perché H- è soft. E come mai il CO è hard e l'H- ci reagisce? Per questo motivo qui. Cosa che sui libri io non ho mai trovato scritto. Però è così. Bene. Come è fatto il vinilettere? Il vinilettere ha una struttura di questo tipo. Questo carbonio-carbonio imita il doppio legame carbonio-ossigeno. Il carbonio, che è qui, normalmente, che è sempre lo stesso, questo carbonio qui, sta da una parte ricevendo e dall'altra parte dando. Quindi, da un punto di vista di effetti elettronici, rimane grosso modo alla stessa grandezza. Semmai si alza un pochino perché questo c'ha un effetto elettronattrattore. Di poco. Questo atomo di carbonio che stava qui, però si abbassa e va qui. Quindi noi avremo una situazione di questo tipo. In parole povere, un vinilettere, il legame, questo coso qui, si abbassa. L'orbitale vuoto, l'umo, si abbassa e diventa soft. Che vuol dire? Vuol dire che quando io faccio reagire questi signori, questo che è il più soft di tutti, perché questo è più hard, perché c'è un gruppo elettronico, attrattore per effetto induttivo, fai conto un NO2, questo invece c'è un gruppo elettron donatore per effetto mesomerico, quindi te capisci che l'effetto donatore sul doppio legame ti rende l'orbitale vuoto più soft. Lui e lui reagiscono insieme, te non c'hai problemi. Alla fine ottieni questo, OR così. Vuoi vedere che dopo il secondo step è o così o pomì? Se lo fa, perché non c'è altro, te devi reagire con questo. E allora? Non mi fermo un attimo una cosa. Sì. Perché il doppio legame CCH è più simile al CO? Dunque, il doppio legame CCH è più simile al CO perché qui c'è scritto più delta meno delta. Vedi come è fatto CO? Più delta meno delta. Quindi questo carbonio qui assume una carica, una densità di carica più bassa. Quindi si abbassa. Ok? Sì, sì. Che cosa succederebbe se io avessi qui una nitroefina? Quest'altro caso qua. Ammetti che X sia NO2 e questa è una nitrolefina, no? La nitrolefina è fatta in modo tale che te c'hai questo che fa così e questo che fa così. Questo carbonio diventa più delta, questo carbonio diventa un pochino meno delta, perché, benissimo, allora, questo carbonio qui che stava qui, questo qui va molto più in alto. Questo carbonio che è qui, grosso modo rimane lo stesso, ma un pochino in alto si alza lo stesso perché c'è l'NO2 che attira. Quindi tu vedi come questo sta diventando soft, ma questo, poverino, sta diventando hard. Quindi l'orbitale che mi interessa a me sta diventando hard, quindi è quello che reagirà dopo. Sì. Ecco. In questo contesto, se te conosci questo trucchetto, ti fai tutte le reazioni di Diels-Alder che vuoi, sapendo, se ce la fai, che tra i dieni e i dienofili devi ottenere lo stesso tipo di software, se no non puoi fare la selezione. Bene. Tenete presente che la reazione di Diels-Alder è una delle reazioni più importanti da un punto di vista industriale. Quindi caricare tutto insieme è qualcosa che noi possiamo prevedere di poter fare. Come al solito, quando abbiamo dei dubbi, nulla ci vieta, anzi lo dobbiamo sicuramente fare, di prendere un'autoclave e fare una prova, un'autoclavina piccola. Fai una prova e vedi se la reazione ti va, allora poi la proverai sull'impianto pilota e poi la proverai sull'impianto grande. Ma sostanzialmente bisogna avere l'idea di provare. Perché sai, sulla lavagna poi viene fuori tutto. È come si dice, la teoria qui dentro c'è. No? Però quanto più hard, quanto più soft sono queste cose, sulla lavagna non si riesce a capire bene, se uno non ha un po' di esperienza non lo sa. L'esperienza che te c'hai su questi composti è l'esperienza quando te stai facendo reagire questi doppi legami con un acido, no? L'alchene reagisce con l'H+, abbastanza velocemente. Il chetone reagisce con l'H+ velocissimamente. Il vinilettere reagisce con l'H+ come il chetone, si sputtana e si polimerizza subito. La nitrolefina, l'H+, non gli fa niente. Perché? Guarda come è messo l'H+. L'H+ reagisce con l'orbitale pieno di elettroni. Quindi con l'alchene reagisce qui abbastanza bene. Col chetone reagisce più velocemente. Col vinilettere anche velocemente perché questo è basso. Ma con questo? Te prova a metterci l'acido cloridrico concentrato e la nitrolefina, ci galleggiano dentro, si guardano, tanti saluti, non fa niente, niente. Ecco, questo per dare una indicazione di come, vedi, a volte questi giochini con l'hard e soft possono essere utili, proprio perché te in una reazione multicomponente devi sapere quali sono le velocità di reazioni tra di loro, perché se no non ce la fai, eh. O speri, come al solito, che la reazione sia di equilibrio e che comunque il prodotto finale sia termodinamicamente più stabile, allora qualsiasi cosa succede, chi se ne frega. Però non sempre succede così. E se te vuoi far risparmiare il padrone dell'industria, bisogna che ci pensi. Ecco, per il momento ci fermiamo qua. Se no vi fondo il cervello, ed è bene che ciò non accada.